sento in gabbia, mi sento come nella nebbia, che mi offusca peggio della rabbia, che brucia come sabbia, yeah, che brucia come sabbia. Sono entrata a Narnia non per vendere il fumo, non andrò mai in gabbia, questo almeno presumo. Se hai problemi vieni, giuro, non avrò paura a farti un buco, yo, a farti un buco. A sta quale faccio uscire il muco, entro profondo, le viene la talassofobia. Fobia tua ma non mia, quindi la porta a scuola anche col mal di gola. Per sta troia qua facciamo la ola, è una sociosanitaria, è una sociosanitaria. Tira brutta aria. Non la scopo se è un 10, ma se fuma 10G. Mi piace di più se il padre tiene un classe G. Mi piace di più se la madre mi fa i cookie. Le do la roba, io basta che li fa creamy. No, non sono un creamy, né mi atteggio da creamy. Spero sempre in una chiamata della Fimi. Grandi attimi mi porteranno tanti astici. Grandi attimi mi porteranno tanti astici. Mi sento molto più Lucifero che Dio. Qua non crediamo in Dio, ma nel nostro io. Qua cresci storto e vedi grandi passar sassi, ma non sarò come loro, io cambio gioco. Io, amante della cultura, tu manco del culo. In un loculo ti pregheranno anno dopo anno, le tue labbra mi mandano in affanno. Un compleanno solo con Dio tu non l'hai mai fatto, e sono fatto, ne prendo atto. Sono esterrefatto, un torcione ed era ben fatto. Mi sento inadatto. Per sta troia qua facciamo la ola, è una sociosanitaria, è una sociosanitaria, tira brutta aria. Non la scopo se è un 10, ma se fuma 10G. Mi piace di più se il padre tiene un classe G. Mi piace di più se la madre mi fa i cookie. Le do la roba, io basta che li fa creamy. No, non sono un creamy, né mi atteggio da creamy. Spero sempre in una chiamata della Fimi. Grandi attimi mi porteranno tanti astici. Grandi attimi mi porteranno tanti astici.